questo è il problema. Veniamo a un altro piccolo argomento sempre di cronaca attuale. Allora, voi sapete, noi sappiamo, voi sapete che a seguito del scandalo Cerroni, della questione di Malagrotta, sono stati coinvolti alcuni importanti dirigenti regionali, un paio in particolar modo. Immaginatevi questo: la regione ha chiaramente un consiglio, un presidente, gli assessori, poi ha una macchina amministrativa. Tenete presente che la regione c'ha un, come dire, movimenta un sacco di soldi, non solo, ma poi è una struttura, cioè è la regione fa le leggi nelle sue competenze esclusive, e poi ha un, come dire, dei ministeri sostanzialmente, una struttura amministrativa che è quella che deve far funzionare la macchina, quindi la macchina della sanità, la macchina dell'ambiente, nelle sue prerogative. A capo di questi settori ci sono dei dirigenti che sono, che entrano per concorso e che arrivano fino ai ruoli apicali. Due di questi dirigenti in particolar modo sono stati coinvolti all'inchiesta di Cerroni e destituiti dalla giunta, dal presidente Zingaretti. Peraltro è curioso perché è uscito la delibera della giunta della destituzione di questi due alti dirigenti con degli omissis. Si delibera, no, è pubblica ancora, si delibera che per le ragioni per quali ragioni? Omissis, omissis, la faccia della trasparenza. Vedi, a un certo punto l'hai sfiduciato, hai detto che li devi sospendere, non so più ci sarà stata una ragione. Che succede? Che ne è rimasto uno solo, Highlander. Ne rimarrà uno solo. No, ne è rimasto uno solo, cioè tutti i dipartimenti, cioè i ministeri della regione hanno un solo ministro. No, ministro no, sarebbe l'equivalente del governo del capostruttura, non so come si chiamano nei ministeri, dirigente principe, insomma. Beh, sotto il ministero dell'economia, sotto il ministro dell'economia chi c'è? C'è In realtà non c'è, perché ci sono i sottosegretari che però ma sono più di uno. No, ma poi sotto i sottosegretari c'è il primo dirigente, quello che firma gli atti. E questo non è che i sottosegretari li firma tutti per tutti gli assessorati. Questo. E dice: la denuncia del sindacato dei dirigenti, non è che la fonte sia un granché, se voi lo immaginate. No, non però, siamo ai livelli dell'Ospol, ma quasi. Così decidono in pochi e nessuno verifica. Una vera e propria rivoluzione, quella ai posti di comando della Regione Lazio. Non tutte le rivoluzioni, però, portano al cambiamento immaginato. Anzi, a denunciare un vero e proprio blitz sul regolamento di organizzazione della giunta, che di fatto assegnerebbe superpoteri come assunzione e verifica a pochissimi fidati, il segretario regionale dell'associazione dirigenti e quadri direttivi nelle bozze del documento strategico di programmazione 2013-2018, uno degli indirizzi previsti è, guarda caso, riduzione dei centri decisionali in regione, un chiaro intento di concentrare in poche figure delle responsabilità che la legge e il contratto assegna a tutti i dirigenti, al di là della posizione più o meno subordinata. E qui va avanti a spiegare: il segretario generale può attribuire, insomma, voglio dire, e quindi questa questione, che sembrerebbe anche questa una piccola questione, in realtà riguarda i centri effettivi di potere e di decisione. Lo so, non ti interessa, no, veramente come noiosa come cosa, diciamo, rileva, perché stiamo parlando non del sesso degli angeli. No, perché scusa, se tu questi li hai accusati di aver avuto un ruolo cruciale di snodo tra Cerroni, le sue discariche, il sistema rifiuti, il sistema inquinamento e le decisioni politiche sulla giunta, vorrà dire che è un nodo importante, perché se sono state così importanti evidentemente rileva. E anche il fatto che ne rimarrà uno solo è... No, i nomi di chi? Dei dirigenti destituiti? Fegatelli e l'altro si chiama... lo possiamo controllare. Però insomma, voglio dire, mo questo non è un citofono, però se la persona vuole intervenire, ci vuole dire qualcosa, volentieri, però se ci telefona per sapere... E De Filippis, Fegatelli e De Filippis. Beh, no, prego. Pronto? Pronto? Pronto, ci sei? Cioè, no, ci sei, come non ci siamo? Buongiorno! No, dico, perché mi mancavano i nomi, no? Io l'ho letto, Fegatelli e De Filippis. Bravo, non l'avevi detto. No, non l'avevo detto perché, cioè, non so manco quello che è rimasto, ne rimarrà uno solo, l'Highlander. Marotta, mi pare. Che Marotta, dirigente, forse lui. Però si chiamano direttori generali. Bravo. Lo so, ma noi siamo ignoranti. Cioè, ma non è che l'hanno revocati? Non si sa, c'è scritto Missis. Io l'ho letto, ecco, adesso mo mi sovviene pure dove l'ho letto. L'ho letto sul sito del No Inc. d'Albano. No Inc. No Inc. No Inc. No. Si chiama coordinamento contro l'inceneritore, per ora, visto l'inceneritore è quasi morto, però ci manca qualcosa ancora, l'atto di morte. Però formalmente ancora in piedi, perché c'è una autorizzazione integrale ambientale in piedi. Ci sono i soldini che ancora devono revocare le concessioni dei CIP6. Prego. Che invece di fare, per esempio, vedo che circolano documenti, si parla di privatizzazioni, di cose, eccetera. Poi nel merito non sa un cazzo nessuno, insomma, no? Concordo. Allora, cari compagni urbani. Noi siamo molto inurbani, noi andiamo per feste, per teatri. Sono 6 anni che ripetiamo la stessa cosa, ma perché non aprite le orecchie? No, vabbè, però insomma, mo approfitta questo spazio per aprirne un altro pezzetto, però. Tanto no, visto che ci sei. Questi signori, cioè dico, a parte il fatto che si tratta dei personaggi che erano già, quantomeno il signor Raniero De Filippis, per dire, direttore generale, lì si tratta dei dipartimenti energia, rifiuti, territorio. Ambiente, territorio. Tutte robe là. E quindi sono stati inquisiti perché hanno fatto atti. Come si dice, apparentemente contrari alle leggi, e anzi dalle intercettazioni erano coscienti di aver fatto atti contrari alle leggi, promulgando sospensioni di provvedimenti già presi, emanando provvedimenti di Senti, però te volevo fare una domanda, ma te pare a te che, a me mi fa un po' curioso che alla fine abbiano scaricato tutto sulle spalle di questi due? Ma non è vero che sono sulle spalle questi due. Primo, si tratta di 7 provvedimenti di custodia cautelare in casa, tutti a casa, né? Ce ne sta uno. No, a casa. Ma noi siamo contenti, però. Noi siamo contenti. Ma sì, ma chi se ne frega? No, nel senso. Anche perché è meglio che 87enne, 88enne, non so che cosa. Insomma, che vada in carcere a me proprio non mi frega, però è resto, siccome poi si tratta di considerare qual è la politica generale dei rifiuti, siccome non cambia, anzi si introducono elementi di ulteriore criticità, per utilizzare una terminologia che va molto in voga, allora il problema è quello. In ogni caso ci stanno ingegneri, in ogni caso è vero che l'inchiesta si può estendere, perché se c'è un reato di truffa e di appropriazione indebita che viene contestato sulle fatturazioni, che non è un problema del metodo Albano, cioè probabilmente è esteso a livello no, io sai che dubbio c'ho, c'ho solo un dubbio, tutto molto. Quanto stanno succedendo altri casini, No, certo, io c'ho solo un dubbio, che la cosa che tu sottolini, no? Vabbè, l'inchiesta si può estendere, i magistrati, però io sempre, ma a me quando diciamo ha chiuso Malagrotta e poi dopo un po', poco tempo tutto sommato, arriva al culmine un'inchiesta che guarda caso coinvolge Cerroni, guarda caso coinvolge quei settori, diciamo che a quanto pare, perché voglio dire, poi l'inchiesta è ancora l'inchiesta, noi a beneficio dell'inventario diamo a tutti, no? Sì, ma proprio il principio. Non è uscito per niente sulla stampa, adesso adotto lo stesso metodo tuo, ti interrompo, quando certo, è, certo, no, no, è giusto, giusto. Certo, detto al predicato verbale. Tra l'altro c'è stata pure una udienza del tribunale di riesame su questi provvedimenti cautelari, e il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di uscita dai domiciliari, quindi perché ci stanno una serie di fatti importanti e tra miliardi di virgolette nuovi, che fanno sì che i personaggi interessati a queste cose, e ti dico direttori generali, ingegneri, collaboratori, eccetera eccetera, andranno sottoposti alla verifica di ulteriori fatti. No, io non ho una grande fiducia dell'inchiesta dei carabinieri, però. Ma chi vedremo. Se ne frega, però la questione, anche perché le cose, cioè gli atti illegittimi di cui si faceva a cui si faceva riferimento rispetto ai signori Fegatelli e De Filippis, sono relativi all'anno 2008, capito? 2008. Ed è sottratti dai procedimenti di carattere, cioè la contestazione degli atti regionali fatti a livello del giudizio amministrativo da il sottoscritto coordinamento, come si dice? No, è chiaro. Siamo nel 2014, guarda un po'. Che è successo dal 2008 al 2014? Hanno continuato a fare i cazzi loro. No, il problema è che forse continuano, e questo è un bel problema. Questo è un bel problema. E da questo punto di vista, che a me interessava, non è che non interessa, interessava poco l'inchiesta. Io credo che sia stato fondamentale rompere il, come dire, la cappa di omertà su questa vicenda. Dopodiché il problema che comunque erano in ballo 400-500 milioni, certo, sì, e dopodiché l'altra domanda che ci siamo fatti, e questo forse tu potrai darcene qualche lume, è: e dopo Cerroni? Guarda, se, ma a me mi manca solo che qualcuno mi dice che sto a lavorare per Caltagirone, e poi io sono contento. No, però è una domanda sul set. No, dopo Cerroni non c'è, perché cioè la grande visione scientifica delle cose è tale che per ora, dopo, restando in piedi inceneritori e discariche, si aggiunge la famosa storia che loro dicono compostaggio, ma in effetti si tratta di centrali anaerobiche, e quindi per l'utilizzo dell'umido su vasta scala, 400.000 tonnellate, stando, eccetera, eccetera, e grandi impianti. Ancora ieri, mi pare, su Repubblica c'è sta Fortini, mi pare che si chiama questo ultimo, che sì, il nuovo amministratore delegato dell'AMA, vantava la grande centrale da 60.000 tonnellate di impianti di compostaggio Aprilia e Kyklos, ed è anaerobica, con tutta questa, qui su altri imbrogli de sì, ricordiamo per gli ascoltatori che l'anaerobico, che sicuramente da questa radio le hanno sentite queste cose, però glielo ricordiamo che, a differenza del, come dire, di mettere a compostaggio all'aria, certo, i materiali organici, un processo diciamo naturale, l'anaerobico avviene in dei silos con delle tecnologie, biotecnologie in realtà, di accelerazione di questi processi, con una serie di rischi per la salute, di problemi tecnologici, dove se metti a bollire l'umido. Io però la domanda è dopo, perché su questo argomento si muovono degli appetiti enormi, nel senso che le multiutility di servizi stanno gli incentivi, tanto per cambiare, ci stanno gli incentivi, ogni kilowatt che produci in questo modo c'ha fra i 22 e i 28 centesimi al kilowattore di incentivi, quindi diventa, per dire, al nord, dove ce ne stanno già migliaia adesso di impianti, è più conveniente prendere mais e buttarlo dentro questi calderoni piuttosto che portare a termine la coltivazione, faccio la farina, il pane, eccetera, eccetera. Da noi non si parla di mais, si parla di rifiuto urbano, si tratta di deiezioni animali, si tratta di prodotti a depurazione delle acque. Anche peraltro leggevo oggi, ti interrompo solo, che è stato messo sotto sequestro uno dei depuratori di Roma che fa la depurazione di tutta Roma Est, per 1 milione di abitanti, se ho letto bene, per gravi violazioni delle norme della depurazione. Sì, questo alla CEA è stato sequestrato. Questione, sì. No, così è un elemento in più. Fa quadro. Grazie Dante. Grazie a te, ciao. Vabbè, ci eravamo dimenticati del nome, abbiamo fatto bene a ricordarlo. Rimane sempre questa domanda che aleggia, no? L'Highlander chi è? No, nel scherzo, non è una battuta, no, è che ti viene in aiuto qui, parla, no, a parte il compagno che è intervenuto, dico dalla parte politica, bisognerebbe tirarglielo fuori con le pinze per capire poi quali sono gli equilibri nuovi, perché noi poi sottolineiamo questa figura dei dirigenti, perché appunto poi la politica spesso si nasconde dietro molto più spesso, cioè queste sono le figure che contano davvero. Peraltro diciamo, abbiamo non vanno in pasto, un commissario, abbiamo un commissario, un altro prefetto, che cos'è un prefetto? Credo di solito sono prefetti. C'è stato quel balletto, no, tra Zingaretti e Marino, ci serve un commissario, e a questo punto mi avrebbe tanta voglia di rimettere ci serve un commissario, e un commissario ce l'ho io. Ce l'hai? E ce l'ho un commissario. Quale? C'è un commissario Falco? Al di sopra di ogni sospetto. Che era commissario? E certo, un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Adesso lo troviamo e lo mandiamo subito in onda. Vai. Non partirà. Bisogna dargli tempo. O non partirà. Non vuole partire. Curietta Berti questo. C'è la pubblicità, abbassa. Abbassa c'è la pubblicità, perché lo prendiamo su YouTube, lo dico così in maniera proprio. No, non l'abbiamo preparato. Ci sono 13 secondi di pubblicità. Adesso però a un certo punto puoi skippare. Ah, poi salta l'annuncio, esatto. Ecco, c'è scritto skip e non l'avrei mai trovato io. Vai. piedi! Toruzzo, come va? Come va? Bene, grazie. Signori, mi auguro voi apprezzate la novità d'essere riuniti qui tutti insieme, un po' all'americana. Vi dico subito che per il tipo di lavoro che ci attende siamo in pochi. È vero. E dovremmo essere molti di più, molti di più, seduti. Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni... Con la morte nel cuore interrompiamo la splendida interpretazione di Gianmaria Volonté di Un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Il gioco era quella del commissario, però insomma le notizie ultime adesso non so se l'hanno fatto questo commissario, però Orlando ok al commissario attuatore, sarà solo a tempo, sarà un commissario per sé. L'importante è che la procedura normale non si faccia, sempre bisogno di un commissario, quello è fondamentale, c'è sempre bisogno di un prefetto, di qualcuno. Però è il paese che si basa su questa regola, su una dittatura commissaria sostanzialmente, e gli piace. Del resto è da Quinto Fabio Massimo che andiamo avanti con l'emergenza, sì, qualcuno leggevo una cosa molto interessante sul terrore Cimbrus, terrore dei cimbri. Ci fu una fase di Roma, adesso io sono un po' ignorante, però l'ho letta, era interessante, in cui era diffuso nella Roma repubblicana una tale, o addirittura la Roma repubblicana, una tale paura di questi cimbri, nella popolazione di Galli celtica che arrivò diciamo ai confini della città eterna, ma erano talmente cattivi che da lì si inaugurò la forma della dittatura commissaria, cioè la necessità di sospendere la legalità repubblicana, le istituzioni repubblicane, per usare tutti i mezzi necessari per il terrore proprio, no? Perché questi erano proprio cattivi, pare che facessero a pezzettini i poveri romani con le toghe, che io poi so che i romani proprio insomma si sono sempre fatti valere, però evidentemente sì, questi cimbri erano proprio cattivi. Da lì non si è più fermata, ogni volta che c'è un sassolino, che è un problema, emergenza, un rivolo d'acqua, c'è il terrore cimbrico e si trova un commissario, un salvatore della patria e via dicendo. Basta, io dico basta, ce la facciamo. Più siamo andati avanti, siamo andati indietro, fino ricordando a tutti che è uscito un nuovo quotidiano. Il nuovo quotidiano si chiama Pagina 99, è un quotidiano che seguiremo con attenzione. Non ha maiuscole. Ah sì, non ha maiuscole, i titoli non sono con la maiuscola. Chissà che dirà dei rifiuti, niente, perché loro cultura, forse economia. Alla voce economia dovrebbe interessare. Forse economia. No, allora, ricordando a tutti invece le questioni più serie, soprattutto quelle che ci hanno segnalato le telefonate, anche questo appuntamento importante che si prevede in virtù del tentativo del senatrice Lanzillotta di Scelta Civica di reintrodurre un grimaldello per la privatizzazione e il licenziamento dei lavoratori delle municipalizzate romane all'interno del decreto Salva Roma, che passa sostanzialmente con un ricatto alla Giunta in emergenza economica, non perché noi dobbiamo difendere la Giunta, però il dato è quello. Lungi da noi, attenderemo che anche su questi argomenti questi nuovi soggetti della politica, questi dell'inchiesta, questi molto vicini al Gambero Rosso, dicano qualcosa, la Carlini dica qualcosa. Vabbè, arrivederci e grazie. Sei pronto per Crozza, comunque, secondo me, soprattutto per fare l'editorialista. Grazie. La prossima stagione. Grazie soprattutto per la pazienza, naturalmente. Va bene, ci risentiamo fra poco per parlare di voli e di Arabia, e poi alle 13 si conclude, come sempre, con il Giornale Radio.